Europa 24. Elezioni britanniche in primo piano, l'Unione Europea pronta a lavorare con il rieletto primo ministro David Cameron sulle sue proposte di riforma, ma i principi fondamentali a partire dalla libertà di movimento sono non negoziabili. Le quattro libertà nel trattato europeo non sono negoziabili, ha detto un portavoce del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Ma ci colleghiamo in diretta con Londra con il nostro Sergio Nava. Sì, buongiorno Piera, mi trovo proprio in questo momento di fronte a Downing Street, dove si è chiaramente spostata ormai tutta l'attenzione. Pochissimi istanti fa ha fatto anche il suo ingresso un'auto, non so se sia quella del neo rieletto premier David Cameron, comunque c'è stato molto movimento, è una zona anche abbastanza bloccata perché oggi si celebra il Veterans Day, il 70° anniversario della vittoria sulla Germania nazista, e ci sono celebrazioni previste in tutta Londra. Allora, andiamo subito a parlare quindi dei rapporti Europa-Gran Bretagna dopo queste elezioni. E sicuramente ci sarà il referendum nel 2017, lo ha ribadito David Cameron non appena ha saputo della vittoria questa mattina. Tra l'altro da poco ha avuto la maggioranza assoluta ai comuni con i conservatori, che hanno raggiunto quota 326, e noi abbiamo sentito proprio di fronte a Westminster questa mattina Saïd Kamal è uno dei più importanti eurodeputati conservatori a Strasburgo. Sentiamo la sua voce e diciamo riassumiamo anche cosa ci ha detto. I think it's quite clear that there has to be some reform on the issues of freedom. Allora, Saïd Kamal, conservatore, dice alla domanda quali sono le proposte che il suo partito metterà sul piatto, che Cameron porterà ai leader europei, dice è sicuramente la riforma dell'immigrazione e della libertà di movimento all'interno dell'Europa. Non vogliamo una maggiore integrazione politica, dice Kamal, ma un'area economica dove che rafforzi la competitività dell'Europa e anche la capacità commerciale dell'Europa. Quindi di fatto i principi cardine che i conservatori portano avanti. Kamal ha confermato che ci sarà un referendum al 100% sullo stare in Europa o sull'uscire dall'Europa tra due anni, nel 2017, e ha concluso dicendo che secondo lui Cameron non porterà una vera e propria proposta formale al prossimo vertice europeo di giugno, perché Cameron dietro le quinte sta già trattando su diversi punti con i colleghi europei, quindi se ne parlerà ma non ci sarà una vera e propria proposta formale. Da Londra è tutto. Grazie al nostro Sergio Nava. Il capitolo Grecia, nessun accordo in vista per lunedì, l'Eurogruppo non sarà decisivo, Atene ha fatto progressi ma non sono sufficienti, a dirle da Roma il ministro delle finanze olandese, presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, al termine di un incontro bilaterale con il ministro dell'economia Padoan. Tuttavia rimangono le aperture su un possibile alleggerimento del debito greco. Se il governo greco completa pienamente il programma di riforme richiesto, ma la sostenibilità del debito non fosse ai livelli richiesti, allora l'Eurogruppo sarebbe pronto a fare di più sulla ristrutturazione del debito. In questo senso resta valido l'accordo del novembre 2012. Questo è ancora un punto valido, una promessa per il futuro. Queste le parole questa mattina a Roma di Dijsselbloem. E nei giorni della festa dell'Europa viene inaugurato proprio in questi minuti il padiglione dell'Unione Europea all'Expo. È lì per noi Laura Bettini. Buongiorno Piera, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo qui tutti in attesa dell'inaugurazione del padiglione europeo, che ritarda rispetto all'apertura dell'Expo di una settimana, ma lo fa appunto per la coincidenza della festa europea di domani, per la quale poi arriveranno a Milano anche l'alto commissario Mogherini e il presidente del Parlamento europeo Schulz. Qui oggi c'è invece il commissario all'educazione e all'istruzione dell'Unione Europea, Tibor Kovacics, e quindi qui siamo in attesa che si inauguri questo padiglione che promette meraviglie, ma che per adesso è decisamente blindato, quindi tutti fuori in attesa dell'ora X. Grazie a Laura Bettini, e si chiude qui Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.